La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Spero che siate tutti in auto col finestrino abbassato e la radio ad altissimo volume, perché Gigi D'Alessio va ascoltato così, altrimenti non si gode fino in fondo. C'è un aneddoto su questa canzone che un giorno vi racconterò, non ora. Ora devo parlarvi di qualcos'altro. Sono sempre Tommaso Labranca, sempre qui alla Bella Estate, ad analizzare, fare a fette la vostra estate, le vostre estati. Quando andavate via, cosa facevate? La prima cosa che dovevate fare era tranquillizzare la mamma, la nonna o il papà che eravate arrivati, quindi bisognava telefonare. Tra i pochi ricordi che ho io delle mie vacanze, perché io in vacanza non ci vado mai, c'è questo ricordo molto triste. E io andavamo con i miei in questo paesino in Subrico e la sera, una sera sì e una sera no, dovevo andare io a chiamare la nonna, telefonare la nonna. Voi potete avere anche 10 fratelli, ma uno di questi 10 fratelli sarà quello con lo stigma, lo sfigato, detto in poche parole, quello che deve andare sempre a prendere il pane, quello che deve andare a telefonare alla nonna. Quindi toccava a me, con questo mucchietto di gettoni, l'ultimo gettone in mano, andavo nel bar cooperativa pieno di vecchietti che parlavano in dialetto in Subrico, non si capiva assolutamente nulla, e in questa cabina chiusa e accaldata che sembrava una sauna chiamavo a casa un gettone dopo l'altro e rispondeva la nonna che era lì da sola, poverina, nella città deserta. E la sola cosa che io chiedevo alla nonna era: c'è posta per me? Perché non c'era la connessione continua, non c'erano i messaggi, non c'era niente. Era un mondo abbastanza semplice: o telefonavi o mandavi la cartolina. E oggi parliamo di telefonate o di cartolina. E per farlo, giusto per farvi vedere come è cambiato il mondo, avete più di una possibilità. Potete chiamarmi 800 24 0024, mandare l'SMS 349 238 6666, una mail, la bella estate chiocciola radio24.it, o addirittura una pagina Facebook di cui ieri non vi ho parlato, che è la bella estate, anche quella. Quindi avete mille e una possibilità per raccontarmi come erano le vostre telefonate. Ma giusto per farvi vedere e farvi capire che non ero l'unico a telefonare dal posto pubblico, ascoltate questo pezzo molto famoso. Posto pubblico di Gavinene? Sono il Conte Macetti. Guardi, lì ci deve essere mia moglie, me la passa per favore? Le chiamava le villeggianti, moglie e figlia, perché a maggio le aveva spedite nel paese natale della moglie e ancora non aveva trovato i soldi per schiodarle da lassù. Ha nevicato, Lello, quasi mezzo metro. Ma come, mi fa venire l'infarto per dirmi che ha nevicato? Bene se ha nevicato, così vi divertite, no? Te e la bimba? Sì, sì. Fate l'omone con la pipa. Ma come si fa con le scarpe, con tutto? Che c'entrano le scarpe ora? Ma se ci sa solo quelle da tennis di quest'estate. Ma fosse il male delle scarpe, lì è tutto, Lello. Anche il povero Batacchi, quanto ci può tenere gratis? Vabbè, per due mesi, che vuoi che sia? Lello, è da luglio che non vede una lira. Capirai, il Batacchi, una stanza con l'uso di cucina. Ma chi l'usa più la cucina, Lello? Io non ti voglio affliggere, ma anche la bimba vabbè, non ce la fa vabbè, proprio adesso più. Adesso vengo su io, stai tranquilla che sistemo tutto, non ti preoccupare. Sì, Lello, ma quando vieni? Beh, come quando? Che tristezza, io sento queste parole, sono naturalmente Ugo Tognazzi, il Conte Macetti, con la moglie Milena Vukotic da Amici miei, la tristissima scena in cui lei è in queste vacanze infinite parcheggiate in un paesino, chissà, dell'Appennino toscano sotto la neve. Beh, le mie telefonate non erano così tristi, anche perché ripensandoci oggi non ho più quella tristezza ripensando a quei gettoni, ma quasi una nostalgia delle cose belle, l'odore della legna, del tramonto, la visione del lago lontano. Quindi vedete che poi noi filtriamo quello che abbiamo vissuto e naturalmente teniamo solo le cose migliori. Le cose migliori, ma ci sono anche le peggiori, per esempio le cartoline. La domanda che vi voglio porre oggi è proprio questa qui. Qual è la cartolina più brutta che avete ricevuto dalle vacanze, o che avete spedito, o che avete scritto? Quindi non è soltanto l'immagine, ma è anche il testo dietro, soprattutto se è un testo in rima, perché tutti vogliono fare i poeti spiritosi, simpatici e così via. Cartoline che forse sarebbe stato meglio perdere e non trovare più, come è successo a Troisi in quest'altra clip molto famosa. Ma mi è sta cosca, eh? Chiamo da sempre, chiamerò per sempre. E chi è? Vittorio. Sta cosa stai venendo a cassette leone, hanno scherzo bene la Francia. Ma non lo so io, come amico. Non sai, non sai niente, no. Ma perché non me la dà roba a me, che sia vostro amico, ma ecco il mio nuovo indirizzo di Parigi. Io non voglio che mi tocca la roba a me, perché? Sì, ma se vede, vede che è arrivata il leone Taraz, la pigliatissa, capito no? Sì, la pigliatissa. La pigliatissa, sta cartolina, Taraz a te. era da Le vie del Signore sono infinite. C'era il povero Troisi che riceveva questa cartolina, ma in realtà non gliela davano, restava in un cassetto. Cosa da non fare? Appena ricevete una cartolina indirizzata a un altro, dovete subito consegnargliela. Ho cercato un po' su internet e ho trovato che esiste anche un galateo della cartolina. Sentite cosa propone. La cartolina viene vista e letta da tutti, quindi si badi bene a non inviarle di volgari o di oscene. Beh, se uno non manda una cartolina volgare o oscena, qual è il divertimento? Cioè, è proprio, il divertimento è pensare a quando questo la riceve e che la portinaia deve consegnargliela. Le cartoline sono fatte solo per mandare saluti da lontano, non per far vedere quanto lontano siamo andati. Ma questo non lo fa nessuno. Si tenga presente, dice anche questo anonimo esperto di galateo, che tanto maggiore sarà il piacere di chi riceve la cartolina, quanto più originale sarà l'immagine che c'è su. Non mandate la Tour Eiffel da Parigi, non mandate il tram da San Francisco e il cambio della guardia da Londra, cosa che facciamo regolarmente, perché chi è che va lì a scegliere la cartolina un po' strana. Poi le cartoline sono uguali ormai dappertutto, c'è sempre la stessa immagine. La cosa ideale sarebbe però non mandare cartoline, cercare di scomparire in quei 15 giorni di vacanza che abbiamo. Basta, si sparisce, si scompare. C'è una persona che ha scritto un libro che si chiama Manuale di Sparizione, si chiama Filippo Darino, che fa anche il pubblicitario, ed è la persona più adatta per avere dei consigli su come scomparire in quei 15 giorni di vacanze. Filippo, ci sei? Ci sono, buongiorno. Buongiorno Filippo. Allora, tu hai un po' esagerato, perché tu ci insegni a scomparire per sempre. Noi cerchiamo di restare un po' più coi piedi per terra, almeno per 15 giorni. Cosa possiamo fare per scomparire e non lasciare tracce? Ma è una domanda impegnativa, e anche se potrebbe sembrare una provocazione bella e buona, per scomparire durante le vacanze basterebbe semplicemente, si fa per dire, restare completamente immobili, cioè non andare da nessuna parte, perché nel momento stesso in cui ci si avvia per una meta, per un itinerario, e si mettono in pista i propri dati sensibili, già non si è spariti per niente, ma anzi si è doppiamente percepibili da più parti. Bisogna capire cosa si intende per sparizione. Ci sono agenzie turistiche che promettono mete esclusive, perché sparire sta diventando anche una sorta di esclusività, o almeno la si spaccia per tale. Però in realtà è tutto un bluff, perché chiaramente qualsiasi villaggio, qualsiasi itinerario, qualsiasi cucuzzolo sperduto sull'Himalaya è comunque una meta, e quindi è tutta una cosa prevista, prevedibile, e quindi in buona sostanza gli escamotage per sparire davvero sono consapevolezza in cosa si sceglie, in cosa si acquista, in come ci si orienta nel quotidiano, come si usano i mezzi di comunicazione, a cominciare dal computer, dal telefono e da tutto ciò che ci rende rintracciabili. Comunque, in buona sostanza, sparire è un'impresa molto ardua, molto difficile. Pensa che ho appena visto la pubblicità, sempre su Facebook, di queste baite svizzere che affittano all'insegna di questo slogan: qui non c'è connessione internet e qui non prende nessun telefonino, che mi sembra assurdo, visto che cercano di venderci il contrario per tutto il resto dell'anno. Però no, infatti è tutto abbastanza paradossale, però a me piace ricondurre il tutto a una semplicissima formula. Io non sono un esperto di fisica, ma questa formula ce l'ho ben impressa in mente, che è il principio di azione e reazione, cioè ad una determinata azione prima o poi corrisponde sempre una forza uguale e contraria. Noi l'azione ce l'abbiamo avuta nel tam-tam, in questa grossa balla dell'essere sempre condivisibili, i social network, la telefonia, tutti insieme, il villaggio globale, cioè, tutto questo ovviamente ha saturato l'ambiente, quindi di conseguenza la reazione è piano piano, e ovviamente tutto viene decorato da un'area di esclusività, perché ovviamente se tutti adesso ci sono, cosa è diventato esclusivo? È diventato sparire, quindi isolarsi, quindi sì, il sistema è un po' perverso, ma sta funzionando più o meno così. Anche perché nessuno vuole poi dire non sono stato da nessuna parte, perché si comincia a parlare delle vacanze 3 mesi prima e si finisce di parlarne 3 mesi dopo, quindi si danno anche informazioni non reali a quel punto. Chiaro. Ed è un po' come non essere stati, essere spariti dicendo sono stato in un luogo A, invece tu non ci sei mai stato praticamente. Certo, come abitare nel palazzo esclusivo in cui il tuo campanello corrisponde a un numero e non al nome, quindi tu non sei, cioè abiti nel posto figo, fai la cosa fighissima, però alla fine non sei intercettabile, non sei, come dire, rintracciabile. Ma tu quest'estate sparirai? Sei mai sparito? Hai mai fatto una vacanza di scomparsa totale o no? No, cioè io non ho grandissimi mezzi a disposizione, men che meno adesso, perché sono un precario a tutti gli effetti, però cerco di sparire, ho tentato da più giovane, diciamo, di fare vacanze all'insegna della sparizione, riconducendo tutto alla fine a un modo di vivere, di muoversi molto semplice, molto imprevedibile, anche casuale. Quello forse è il modo più semplice per tentare così di andare all'avventura. Ecco, andare all'avventura forse è il metodo più interessante per tentare di sparire. E poi ci sono i sistemi quotidiani di sparire, cioè non fare la tessera punti al supermercato è un sistema per sparire, perché non usare il banco, cioè non lasciare traccia, esatto, elettronica, non lasciare praticamente la carta di credito, tutto ciò che ti rende sensibile, rintracciabile, è ovviamente una traccia significativa. Se tu la elimini, sei in qualche misura sparito, diciamo. Va bene, terremo conto, faremo tesoro di queste informazioni, così potremo scomparire tutti. Grazie intanto, Filippo. Grazie a te. Grazie. Non scomparire, mi raccomando. D'altronde, chi vuole scomparire? La cartolina, per esempio, vi ricordo sempre di mandarmi all'800 24 00 24, chiamate e fatemi sapere qual è la cartolina più brutta che avete ricevuto o mandato in vita vostra. Le cartoline servono, secondo un certo modo di pensare, a destare l'invidia. Almeno questo si faceva tempo fa. Sentite un nostro amico, Ugo Gregoretti, che è stato intervistato lungamente da Fabrizio Intonti e ogni giorno ci regala una perla di saggezza. Ugo Gregoretti ci parla di che cos'erano le cartoline per lui quando era giovane. Il modo, il mezzo di comunicazione interpersonale più frequentato era quello della cartolina postale, dove non c'era illustrazione, in grado di contenere la quantità di parole di una lettera. E poi invece le cartoline illustrate che uno mandava, io per esempio le mandavo solo se ero in un luogo che avrebbe potuto essere invidiato dai miei amici, dai destinatari delle mie cartoline. So se d'estate riuscì a fare un viaggio a Venezia o anche in Costa Azzurra, sempre con 4 soldi, dormendo nei giardini pubblici, eccetera. Poi una congrua cifra era investita in cartoline e in francobolli con lo scopo esclusivo di fare schiattare di invidia i miei compagni a cui le inviavo. Ecco, questo era il mondo ai tempi della giovinezza di Gregoretti, molti, molti anni fa. Più vicino a noi, mettiamo gli anni 90, c'è un altro nostro amico che ci parla delle cartoline ed è un altro scrittore, Nicola La Gioia, abbiamo già sentito qualcosa ieri. Sentite invece come è cambiato il modo di rapportarsi con gli amici attraverso le cartoline negli anni 90. Io mi ricordo che c'erano queste 3 o 4 cartoline, tipi di cartoline fondamentali per chi, per le comitive di ragazzi che si disperdevano e poi si riunivano dopo l'estate. Allora, una erano le cartoline dalla Grecia. Beh, ovviamente Bari Brindisi, da Brindisi noi prendevamo il traghetto per la Grecia, in poco tempo arrivavi appunto in queste isole e lì potevi testimoniare, appunto c'erano tutte queste isole tipo Ios, non so se è ancora così Ios, ma all'epoca era un po' l'isola del sesso, nudismo, e quindi questa cosa qui doveva essere testimoniata. Due, le cartoline da Amsterdam, si andava da Amsterdam e lì si testimoniavano fondamentalmente le esperienze psichedeliche e di alterazione di coscienza, e quindi erano soprattutto cartoline mandate alternativamente dal museo Van Gogh, dove appunto però poi nella cartolina si diceva come erano i girasoli sotto fungo, sotto psilocibina. Oppure erano cartoline da Berlino, anche perché era anche l'epoca quella delle grandi occupazioni di case di Berlino. I più, diciamo così, ecologisti mandavano le cartoline dall'Irlanda, perché si facevano tipo il Ring of Kerry, l'Irlanda in bicicletta, e quindi testimoniavano soprattutto lunghissime pedalate, avendo da una parte il verde dei prati e dall'altra l'azzurro del mare. Ecco come erano le cartoline degli anni 90. C'è un ascoltatore che a quanto pare è un grande speditore di cartoline, Beppe da Parma. Beppe. Sì, ciao. Ciao, dimmi una cosa subito, quanti anni hai? 50 il 1 ottobre. Perfetto, allora tu puoi capire quello che ci hanno scritto sulla pagina Facebook, secondo cui la più brutta no, cartolina. Grazie a Dio non sono e non sarò mai su Facebook. No, comunque ti dico, ci è arrivato questo messaggio: la più brutta cartolina che un maschietto possa ricevere in vita sua in passato era la cartolina precetto, ti ricordi? Quella che arrivava, che chiamava per la leva del militare. Sì. Tu invece cosa sei? Un appassionato di cartoline? No, perché mi sono sempre piaciute tantissimo. Ho cominciato a mandarle durante i primi anni di università, comunicavamo più con le cartoline che con il telefono. Addirittura ci scrivevamo, ci si trova lì, ed era scontato che ci trovasse senza neanche bisogno di rispondere. Quindi questa era l'importanza che si dava alla cartolina. E successivamente poi i miei interessi artistici così hanno fatto sì che, ad esempio, con una ragazza bellissima che avevo conosciuto ci scambiavamo esclusivamente cartoline di un certo tipo, sia io a lei che lei a me, cioè quelle cartoline con i disegni con gli occhi di plastica sopraelevate, presenti? E come no, cioè popolano ancora i miei incubi quelle cartoline, pupazzetti con gli occhi che si muovevano, no? Soltanto noi due ne possederemmo una cinquantina, quindi questo accadeva a metà anni Ottanta. Attualmente mi piace tantissimo mandarne più che ricevere, perché comunque non potrei riceverne mai, sono difficilissimo come gusti, e tutto quello che ricevo non mi piace, ma ne mando di stranissime, addirittura riproduco qualcosa che trovo sui giornali, trasformandolo in cartolina, facendo delle fotocopie su cartoncino, insomma, robe così. Ma sei proprio un come posso dire, un esperto, un esteta della cartolina. Sì, nonostante le cartoline con gli occhi mobili, che sono abbastanza allucinanti. Cioè... Però ripeto, dietro si celava una... Cioè, era molto difficile trovarle già allora, quindi il fatto di cercarle con così tanto impegno, già nascondeva, e adesso mentre ti sto parlando sono davanti a una di quelle, perciò ancora le guardo, le conservo. Guardale anche per me, mi raccomando, ti ringrazio tanto intanto per aver chiamato. Ma c'è un metodo per mandare le cartoline? Secondo il nostro amico Gregoretti, sì. E poi avevo capito un'altra cosa, che vedevo quando viaggiavo anche insieme a altri coetanei, che questi stavano le ore, magari dovevano mandare 30 cartoline a 30 persone diverse, e stavano le ore a cercare 30 cartoline una diversa dall'altra. E io invece avevo scoperto un sistema molto molto meno stancante, era comprare 30 cartoline tutte uguali, che tanto sarebbero state indirizzate a persone diverse, quindi non c'era nessun bisogno di sceglierle diverse. Beh, insomma, è un bel metodo. Io in realtà, quando spedisco le cartoline, spedisco sempre la stessa. Non sto certo a controllare se sono diverse una dall'altra. Adesso ci tocca ascoltare la Hit Parade di un anno particolare, il 2002, l'anno in cui non sono stati più messi in circolazione i gettoni telefonici. Numero 10, Without Me, Eminem. Numero 9, Wherever You Will Go, The Calling. Numero 8, Shoot the Dog, George Michael. Numero 7, Complicated, Avril Lavigne. Numero 6, A Little Less Conversation, Elvis vs. JXL. Numero 5, Moi, Lolita Alizé. Numero 4, By the Way, Red Hot Chili Peppers. Numero 3, Kiss Kiss, Holly Valance. Numero 2, Le Van Nous Portera, Noir Désir. Numero 1, A Sere He, La Sketchup. Mira lo che si avvicina, a la volta della spina viene Diego rumbeando, con la luna alla pupila, si è su traje agua marina, va de sobre contrabando, y donde más no va un alma y se mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga, y el DJ que lo conoce toca el himno de la doce para Diego, la canción más deseada, y la baila, y la goza, y la canta. Y ese deje, ah, deje, deje, ve tú, deje, ve, deje, vi un hombre. Avevo fatto di tutto per dimenticare questa canzone, ma adesso me la sognerò anche stanotte. È un po' l'equivalente di quelle cartoline di cui parlava prima l'ascoltatore, quelle con gli occhioloni mobili. Vabbè, lasciamo stare. Leggiamo piuttosto qualcosa che mi è arrivato sulla nostra pagina Facebook che si chiama La Bella Estate. Diana dice che negli anni 60 si usava scrivere nel posto dove poi si incollava il francobollo delle micro frasi d'amore che restavano così nascoste. Chi riceveva la cartolina sapeva che doveva sollevare il francobollo e trovava sotto queste micro tenerezze. Qualcun altro invece dice che le cartoline migliori sono in realtà delle lettere, e per di più quelle le lettere che spediva Flaiano alla sua amica Lilia. Ma Stefano, sei veramente un esperto di letteratura. Flaiano veramente va venerato, e certo nominare Flaiano con A Seghere Sotto fa un po' paura. Basta così, dai, togliamo questa canzone perché sennò non ce la faccio più. Torniamo invece dopo la borsa. La Bella Estate. L'ascolterei tutta, ma naturalmente non si può. Alessandro Canino con Tutto Tutto è un disco fondamentale perché è stato l'ultimo episodio legato al telefono fisso. Cioè, Canino, quando cantava questa canzone, non sapeva che di lì a due mesi sarebbe scoppiata la mania dei cellulari. Aveva ancora il bigrigio della Telecom, o anzi della SIP, come si diceva ai tempi, coperto dal cuscino per non far sentire lo squillo di notte. E sicuramente è una cosa che avrà fatto anche Max da Dignano, in provincia di Udine, che mi scrive una cosa per SMS. Lui negli anni 70 andava in giro sul lungomare di Lignano Sabbiadoro e premeva il pulsantone giallo dei vari telefoni a gettone, perché ogni tanto ce n'era qualcuno che restava incastrato, pum, veniva giù, e i gettoni potevano essere usati anche come moneta di scambio ai tempi, anche se non erano considerate effettivamente delle monete. C'erano delle guide turistiche per stranieri che avvisavano addirittura i viaggiatori: attenzione, non è una moneta falsa, ma viene usata effettivamente come moneta di scambio. Poi sono arrivati i cellulari e sono cominciati anche i guai, come purtroppo vissuto sulla sua pelle Stefano Accorsi dell'Ultimo Bacio. Cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato? Ma lo sai! Cioè? Sono stato con Adriano! Con Adriano? Con Adriano, con Adriano, te lo giuro! Ecco Adriano, adesso glielo chiedi a lui! Pronto! Tutto lo sono stato io! Chi è questo con cui sei uscito? Non è nessuno! Dimmelo! Solo un bacio! Ti giuro che non succederà più! Mi fai schifo! Che cazzo è, Francesca? Basta! Basta! Altro che violini, le ha suonate veramente, ma proprio ha trovato un nome sul cellulare, Francesca, lui diceva Adriano. Mi ricordo una mia cugina che quando riceveva le cartoline da Filippo piuttosto che Giulio, scendeva giù, prendeva la cartolina, con la penna aggiungeva la gambetta, Filippo diventava Filippa e Giulio diventava Giulia, e diceva alla mamma che erano delle amiche. Quindi, come vedete, anche ai tempi si poteva fare questi sotterfugi, si potevano mimetizzare, si poteva mistificare, non far sapere agli altri quello che in realtà si faceva. Bene, oggi invece sembra proprio che sia il contrario. Siamo seguiti, siamo spiati, ogni nostra mossa è registrata. Ogni tanto ci colpiscono con queste notizie un po' allarmanti i giornali. Attenzione, se avete l'iPhone vi stanno seguendo e sanno tutto di voi. Ma è vero? Lo chiediamo a Stefano Zanero, che è un ingegnere e ricercatore del Politecnico di Milano. Buongiorno Stefano. Ah, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Stefano, veramente ci stanno seguendo? Veramente è peggio oggi che i tempi della Stasi dell'ex Germania Est? Allora, io farò una distinzione tra ci possono seguire e ci stanno seguendo, perché ci possono seguire è materia scientifica e realistica, ci stanno seguendo poi diventa un po' materia di paranoia o di legittimi motivi di sospettare di persecuzione, no? Ci possono seguire sicuramente molto più che in passato, perché come stavi accennando i nostri cellulari lasciano delle tracce, vuoi alcune più normali, quelle dell'aggancio delle celle telefoniche di cui si sente spesso parlare nel caso delle indagini per i delitti, eccetera, vuoi cose più raffinate, cioè i nostri palmari di ultima generazione. Noi tutti sappiamo che possiamo andare a cercare, no, una cosa che ci stia vicino, e quando noi cerchiamo una cosa che ci stia vicino stiamo dicendo la nostra posizione a chi ci sta fornendo il servizio, per cui queste tracce, diciamo, in teoria possono essere raccolte. Poi se qualcuno effettivamente ci spia in quel momento, questo è un altro paio di maniche. Però c'è da dire sempre una cosa, che noi possiamo agire e decidere quanto essere seguiti e quanto essere ritrovati. Ci sono delle impostazioni da settare nei telefoni, nei tablet e così via. Beh, per alcune cose lo possiamo decidere. Per esempio, se noi decidiamo di utilizzare le applicazioni che consentono di localizzare il cellulare, come Latitude, che segnala la nostra posizione ai nostri amici, oppure come tutte le applicazioni che fanno le ricerche basate sulla posizione, siamo noi che stiamo decidendo di farlo. In altri casi, alcuni cellulari registrano queste posizioni di nascosto e questa cosa crea scandalo, come è successo per esempio con lo scandalo delle posizioni registrate dagli iPhone. Sì. In altri casi ancora, invece, ci sono delle cose che noi non possiamo disabilitare. Per esempio, l'aggancio del cellulare sulle celle lascia una traccia, e questa traccia fa parte del meccanismo intrinseco di funzionamento del cellulare. Se non ci fosse, noi non riusciremmo a telefonare, non riusciremmo a essere raggiungibili, per cui questa cosa è ineliminabile. Però possiamo ancora dire delle bugie, possiamo dire scusa, non posso passare stasera, mi trovo improvvisamente, che so, a Roma, se siamo a Milano, o a Milano se siamo a Roma, o chissà dove. Possiamo ancora mentire, o gli altri possono sapere dove siamo effettivamente? Beh, dipende da chi sono gli altri. Se gli altri sono la moglie o l'amante gelosa, come nello spezzone che mi ha mandato in onda poco fa, allora magari non lo possono sapere tanto facilmente. Se gli altri sono la polizia piuttosto che dei servizi segreti, allora effettivamente la nostra posizione è molto difficile da nascondere, almeno per un lungo periodo, a meno di rinunciare all'utilizzo del telefono cellulare, di rinunciare all'utilizzo di parecchia della tecnologia che usiamo ogni giorno. Figurati, chiedimi di non respirare, faccio prima. Senti, allora sfatiamo, visto che ci sei qui, voglio sfatare alcune leggende metropolitane che si sono diffuse a iniziare dagli anni 90 in poi. Si chiama freaking, che è un misto tra phone e hacking. Allora, sono tutte quegli atteggiamenti, quei trucchi per riuscire a rubare soldi alle società telefoniche. Si diceva un tempo che mettendo la scheda telefonica dentro il freezer questa si ricaricava. È vero o no? Questa non l'avevo ancora sentita, però diciamo che il freaking in realtà è stato un meccanismo vero, molto utilizzato negli anni 80, negli anni 90, per fare telefonate a scorco, ma in realtà non tanto per rubare i soldi di per sé, quanto proprio per l'entusiasmo di riuscire a trovare l'inghippo per cui si riusciva a fare questa cosa miracolosa. Senti questa, bisognava prendere la scheda telefonica scarica e strofinarla su un televisore appena spento e magicamente si ricaricava. Questa è fantastica ed l'ho sentita anch'io. Ce ne sono altre, tipo coprire con vari tipi di strati di cose, dallo scotch alla scolorina ad altre cose, la striscia magnetica delle schede telefoniche. Alcune di queste probabilmente per dei periodi hanno anche funzionato, diciamo. Molte sono solo leggende metropolitane. In generale c'erano e ci sono probabilmente tuttora dei sistemi per telefonare, diciamo, quasi gratis. Certo, al giorno d'oggi uno, se è sufficientemente, diciamo, informatico, utilizza Skype e telefona quasi gratis anche senza bisogno di stare ad armeggiare con le schede telefoniche. Ma ai tempi non c'era. Guarda, chiudo con questa cosa che forse tu non sai. Ai tempi del primo Grande Fratello c'era Salvo, il famoso pizzaiolo, che si diceva avesse un cellulare nascosto e per ricaricare la batteria sfregava contro il muro la batteria stessa, cioè a costo di farla esplodere. Naturalmente anche questo non era vero, però... È assolutamente sconsigliabile, non lo consiglierei ai radioascoltatori. Va bene, grazie, ci hai salvato dagli incendi, grazie tante Stefano. Grazie a te, ciao, buona giornata a tutti. Ciao, grazie. Bene, non fate nulla di tutto ciò che è stato detto finora perché tanto non funziona. Intanto abbiamo un altro ascoltatore, oh mamma mia, Hans da Roma. Pronto? Pronto, eccomi qui. Hans, ma sei tedesco? No, è soltanto il nome, un ricordo dei miei. Ah, ecco, ricordo, ho riportato tutto a casa. Benissimo, allora mi dicono che tu sei un grande speditore di cartoline da posti esotici. Cos'è, Tor Bella Monaca, da dove? Cioè? Esatto, no, battuta. Nella seconda metà dei 90 ho lavorato a lungo in Costa Crociere. Ah. Avevo degli amici che mi chiedevano appunto se potessi mandare cartoline durante, insomma, queste escursioni, chiamiamole così, e quindi eccomi a mandare la cartolina da Capo Nord, dalle Svalbard, dalle Falkland. Ma in questi posti così esotici, sì, c'era la stessa cartolina di cui mi parla Gatta, ma scritto sulla nostra pagina Facebook. La cartolina che preferivo da giovane era quella tutta nera che diceva, certo, Amsterdam di notte, Firenze di notte e così via. C'erano, sì, anche, sì, lì. Ovunque, ovunque. Guardi, dirò, dalle Svalbard mi sono anche automandato una cartolina proprio per certificare la mia presenza là, anche perché il timbro postale era fighissimo. Com'era? Praticamente c'era una foca e poi c'era scritta il parallelo. Ah beh, certo. Stavo a Nyålesund, che sta praticamente, se non ricordo male, il parallelo 79, qualcosa del genere. Quasi casa di Babbo Natale, praticamente. Sì, sì, sì, ma di più, molto più a nord. Quindi diciamo, ecco, mi ritrovavo anch'io, ho sentito anche prima una registrazione di una persona che diceva che avevo 30 persone, facevo 30 cartoline uguali, eccetera. A volte è capitato anche a me, specialmente quando avevo proprio, all'epoca non c'era lo smartphone e tantomeno l'agendina elettronica, quindi avevo proprio una lista di persone e quelle che non abitavano, diciamo, o che non si conoscevano, ricevevano puntualmente la stessa cartolina. Ma non è un mistero, perché poi glielo dicevo. E poi dici, guarda, sono paesi, sì, esotici, ma hanno solo un modello di cartolina. Senti Hans, sì, grazie tante, è stato veramente, niente, un bel ricordo. Niente. Ricorderò per sempre il timbro postale a forma di foca. Grazie, grazie. Niente, c'è un altro nostro amico che è stato intervistato da Fabrizio Intonti e che tornerà nelle varie puntate della Bella Estate, che è Renato Pozzetto. Lo conosciamo tutti, ci ha fatto ridere per tantissimo tempo, ma anche nella sua vita privata ha avuto dei momenti molto divertenti. Sentite cosa faceva col postino quando era giovane. Verso i 13-14 anni, così ho cominciato a avere una ragazzina a Milano. Lei andava sul lago di Garda, credo Garniano, giù di là, e ci mandavamo quelle 3 o 4 cartoline, diciamo, estive, più frequenti all'inizio dell'estate, poi man mano. E mi ricordo che aspettavo l'arrivo della cartolina e il postino da lontano mi faceva un cenno, insomma, di sì o di no, a secondo che fosse arrivato o meno alla porta. Ecco. Chi se lo immaginava un Pozzetto così romantico, che addirittura aveva un codice personale col postino? C'è o non c'è la cartolina della sua fidanzata? Chissà poi chi era questa fidanzata, naturalmente non lo sapremo mai, perché a volte è sempre interessante scoprire queste fidanzate dimenticate, come nel caso, vi ricorderete, della famosa fidanzata di Umberto Bossi, a cui aveva dedicato una canzone incisa da lui. Adesso mi è venuto in mente quel disco, forse perché oggi è una giornata di dischi particolari, eh? Abbiamo cominciato con Gigi D'Alessio, poi la SketchUp e vabbè, abbiamo finito anche oggi, eh? Volato veramente anche la puntata odierna della Bella Estate. Ringrazio quindi Mauro, che è il mio tecnico personale di là, e ringrazio anche la nostra redattrice Viola Bottoni. Ci sentiamo domani e il tema di domani, mi raccomando, saranno i gadget. La puntata sarà dedicata alle cose che hanno tutti. Ciao!